Ciao a tutti, mi chiamo Ivy e sono una ragazza transgender. In questo podcast voglio raccontarvi un po' come vive una ragazza transgender. In questo episodio voglio approfondire di tre discorsi. Il primo discorso sono la situazione peli, l'altro discorso la situazione con le altre persone e il terzo discorso è la situazione con il proprio membro. Allora, iniziamo. Per la situazione peli, la ragazza transgender è... parlo per me stessa, ma poi cambia più o meno da persona a persona. Possono dare più noia i peli che si trovano nella faccia, perché i peli nel corpo molto spesso non danno tanto noia. I peli che si trovano nella faccia, soprattutto nella zona barba, perché dà noia, la ricrescita, perché non tutte le ragazze hanno la ricrescita lenta, molte ragazze hanno la ricrescita veloce come ce l'avevo io. Per togliere questa ricrescita servono sempre soldi e devi farti un laser, e non so precisamente se gli ormoni aiutano con la diminuzione dei peli. Se qualcuno lo sa mi può anche informare su Instagram. Poi per altre situazioni, sempre dei peli, si possono riscontrare sempre nella zona barba dei rossori, perché molte ragazze hanno dei rossori sotto il collo, perché hanno proprio la pelle molto sensibile e iniziano ad avere questi rossori che passando si rivedranno i peli, perché cresceranno. E per la situazione peli basta. Poi per la situazione di persone, di come interagiscono le persone con loro, è molto variabile, perché alcune persone accettano questa situazione, iniziano a parlare al femminile, iniziano ad aiutare nel suo percorso, ma ci sono anche altre persone che non rispettano questa situazione e iniziano a demigrarle, a farle sentire una merda, se si possa dirlo, e a farle sentire extraterrestri, se posso dirlo, o semplicemente alieni. Vabbè, sono meglio di loro, ma lasciamo questa parte. E niente, per un altro tipo di persona è la persona che: oh mio Dio, sono felice di avere una ragazza come te come amica. Mio Dio, che bello, ho sempre voluto avere qualcuno come te come amica. Questa è la cosa che dà molto fastidio a molte ragazze, però non lo so se alcune lo apprezzano. Secondo me è molto fastidioso, perché per alcune ragazze essere paragonate a un oggetto è proprio snervante. La stessa cosa viene data anche alla persona gay, perché c'è questo stereotipo che le ragazze hanno super amico gay e niente, che parla così, ma poi non è vero, perché molte persone hanno il timbro di voce diverso e non è che una persona parli quel modo per quello. Ma vabbè, lasciamo stare questa cosa. E l'ultimo argomento che volevo approfondire in questo episodio è la situazione membro. La situazione membro è la cosa più difficile, credo, per una ragazza, perché c'è un modo per levarlo, sì. C'è la vaginoplastica, credo che si chiami così. E se volete sapere di più cose, potete andare a cercare su internet, c'è di sicuro. In questa pratica chirurgica si va a ricreare la forma di una vagina e rende tutto più naturale. Oppure c'è il taking. Il taking, sempre per chi non lo sa, è una forma di come posso dire, di nascondere il proprio membro. Non è proprio grammaticalmente giusto, ma comunque va a nascondere il membro sottoponendo alcune alcune fasi, vabbè, non le sto a dire ora, ma se le volete sapere di più, sempre su internet c'è la spiegazione da molte persone che sanno molto più di me. E niente, per situazione membro ho finito. E se volete sapere altro.